niente di quel che ho, neanche un minimo brivido. Ora no, c'è più ossigeno nel mio perimetro, è un sintomo chiarissimo. Confesso, sei la causa mia primaria, adesso in me, di tutto il buono che c'è. Lo so, sei la prima Scott.